al volo! Capuano! Che gol di Capuano! Quasi da centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E siamo al conto alla rovescia, meno 10 all'inizio della prossima stagione del calcio italiano, 10 giorni poi sarà il momento della Supercoppa tra Juventus e Lazio, poi preliminari di Champions, poi il campionato, in realtà c'è già l'Udinese che sta facendo i preliminari di Europa League, prima ci sarà l'amichevole della nazionale. Però ci siamo, insomma, meno 10 e poi si comincia. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati se volete scriverci e seguirci su Twitter. Questi sono i contatti per dirci che cosa ne pensate in diretta. Questa notte il Milan ha battuto i Los Angeles Galaxy 2-0, l'Inter domani fa firmare Rolando, ci sono anche altre notizie di mercato, poi faremo il punto nel corso di questa ora che trascorreremo insieme. Prima però affrontiamo questo conto alla rovescia con uno degli uomini che in Italia governa il calcio, e allora saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Maurizio Beretta, presidente della Lega Calcio. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio alla redazione, a chi ci ascolta, buon pomeriggio a tutti e buon calcio. Buon pomeriggio presidente, io saluto anche Marco Bellinazzo, non ha bisogno di presentazioni, la firma del Sole 24 Ore, esperto di questioni economiche legate al mondo del calcio. Ciao Marco. Ciao Giovanni e un saluto al presidente Beretta. Allora, presidente Beretta, preoccupato per i risultati non eccezionali, questa notte celebriamo la vittoria del Milan che ha vendicato la Juventus, però non è andato benissimo questo mese di agosto per i nostri club, è la conferma forse che esiste ancora un gap e forse si è allargato tra noi e gli altri? Ma insomma, come sempre io credo che i risultati, diciamo, di questa fase, che poi coincide con la preparazione, con l'avvio e con l'avvicinarsi della, diciamo, della stagione, vanno sempre presi, diciamo, con le molle, vanno guardati, diciamo, con serenità. Sono tutti dei passaggi importanti, ma diciamo verso l'apertura ufficiale della stagione. Credo che, diciamo, nel complesso, cioè, dobbiamo, ripeto, aspettare a dare, diciamo, una valutazione piena quando ci saranno, diciamo, le competizioni ufficiali. Sì, fortunatamente questo presidente resta pur sempre calcio d'agosto, possiamo divertirci, sognare, litigare, provare qualche analisi, però si comincerà a fare sul serio soltanto fra 10 giorni. Noi abbiamo tracciato in queste giornate, anche con l'aiuto di Marco Bellinazzo, un po' quello che è secondo noi invece il bilancio di dove sta andando il nostro calcio, che è sempre più un calcio d'esportazione, sempre meno un calcio che attira dall'estero grandi nomi, anche se in realtà vorrei sapere che cosa ne pensa. Mi pare di poter dire che ci sia qualche segnale incoraggiante di inversione di tendenza. Ma guardi, io penso che noi dobbiamo partire da un punto. Il punto è che il campionato italiano resta e continua ad essere uno dei campionati a maggior capacità di, diciamo, di attrazione e con un fortissimo radicamento. Questo anche perché, diciamo, è un campionato con molti protagonisti, parlo sia a livello di società che di singoli giocatori, è un campionato equilibrato, diciamo, che lascia, diciamo, grandissimi spazi di interesse. Poi ovviamente ci sono stagioni di mercato in cui, diciamo, il segno va in una direzione o in un'altra. Io penso che sia sempre utile guardare, diciamo, in una dinamica di medio termine. Quello che mi sembra di poter dire è che le società italiane si stiano muovendo nella giusta direzione, cioè quella di puntare al massimo di competitività internazionale, guardando anche in maniera strategica, diciamo, alla sostenibilità di medio lungo termine. Sì, no? ci siamo messi un po' a dieta, Marco Bellinazzo. Sì, c'è stato un processo di risanamento e riequilibrio dei conti in queste ultime due stagioni, imprescindibile se si voleva tornare in Europa con i conti a posto e con una vocazione, come dire, a fare di nuovo da leader, da battistrada. Io volevo chiedere al presidente Beretta Giovanni se ecco, è così difficile effettivamente trovare nuove fonti di entrata, se il calcio italiano, sappiamo essere troppo dipendente dai diritti TV, ha appunto delle difficoltà a battere nuove strade. L'anno prossimo, tra l'altro, mentre in Premier ci sarà un incremento notevole dei diritti TV, ogni squadra in più percepirà mediamente circa 30 milioni e la Premier viaggia verso i 4 miliardi di fatturato, in Italia si tornerà a discutere del contratto collettivo dei diritti TV. Volevo appunto chiedere al presidente Beretta come arriva il calcio italiano a questo appuntamento. Se vale ancora un miliardo o di più o di meno, presidente? Io penso che, ripeto, il valore sia è un valore, diciamo, importante, consolidato e che trova, diciamo, conferma nelle come posso dire, negli ascolti, nella capacità di essere centrale, diciamo, sia rispetto al sistema sportivo, sia in molti casi anche ai fenomeni, diciamo, più generali di coinvolgimento della società italiana. È chiaro che noi abbiamo un problema strutturale, forse se vogliamo due, ma diciamo che rappresentano un ostacolo importante alla crescita dei ricavi. Il primo è noto, come dire, l'abbiamo detto fino alla noia, ed è la necessità di avere stadi di proprietà o comunque gestiti direttamente dalle società. Laddove questo avviene, diciamo, giocano un ruolo importantissimo nella composizione dei ricavi. Basta ricordare che in Germania, in Inghilterra, in Spagna, dove questo avviene, cioè dove ormai gli stadi gestiti direttamente dalle società sono una realtà consolidata, la composizione dei ricavi è un terzo diritti televisivi, un terzo. Sì, noi invece siamo rimasti indietro almeno di 20 anni, però ho l'impressione che non siamo ancora pronti a colmarlo quel gap, perché la legge non c'è. È vero che c'è l'Udinese che si affianca alla Juventus, però le altre in questo momento sono ancora ferme, presidente. La verità è questa. Sì, è anche vero che, ripeto, in tutti i paesi sono stati comunque seguiti dei percorsi dove, diciamo, le società sono state a vario titolo, diciamo, accompagnate in maniera importante nella costruzione di nuovi impianti. Sono state aiutate, possiamo tradurlo così? Assolutamente sì. Uno dei cavalli di battaglia, presidente, di Marco Bellinazzo è, ad esempio, Marco correggimi se sbaglio, l'origine delle fortune, almeno quelle recenti, del Real Madrid, cioè quel cambio di destinazione, d'uso dell'area della cittadella sportiva. In Italia io credo sarebbero sommersi dalle critiche se qualche società avesse un regalo così dal proprio comune. Ma difatti anche per questo, oltre che per assicurare, diciamo, un terreno di gioco e quindi regole uguali per tutti, noi continuiamo a pensare che sia utile, che sarebbe utile avere in tempi brevi una normativa quadro che consenta di avere sotto il controllo pubblico, con le conferenze dei servizi, diciamo, con meccanismi molto chiaramente legati all'investimento che viene, diciamo, deciso non solo dalla società, ma evidentemente, diciamo, in collaborazione con chi deve rilasciare autorizzazioni e licenze, servano, come dire, diciamo, opere di compensazione, interventi di compensazione. È un modello che peraltro già si utilizza per altre realizzazioni e credo che possa essere la strada che, non costando un euro al cittadino e al denaro pubblico, può consentire a tutte possa essere percorsa, anche se ho l'impressione che ci siano delle priorità diverse. Marco Bellinazzo, oggi sui giornali si legge molto dei favori fiscali fatti a Barcellona e Real Madrid, dell'inchiesta aperta dall'Unione Europea. Mi sembra che questo possa essere un tema delicato ma da affrontare. Io non so, poi lo chiederemo al presidente, se anche la Lega Calcio Italiana non abbia intenzione di fare un passo ufficiale per chiedere anche a livello europeo una normativa che riequilibri un po' la situazione. Marco? Sì, purtroppo la normativa fiscale è autonoma, nel senso che ogni Stato ha la possibilità di stabilire le sue regole, quindi l'Unione Europea può poco da questo punto di vista, e mi meraviglia come si siano svegliati tardi, diciamo, tutti gli altri club di fronte a una situazione che era chiara per quanto riguarda Real Madrid e Barcellona, come è chiaro per esempio nell'ottica del fair play finanziario il fatto che gli apporti dei 100.000, 200.000 soci dei due club vengono considerati come ricavi e non come apporto di capitale, questo crea una disparità. Insomma, ce ne sono, la strada è lunga, io credo che magari la Lega dovrebbe sì muoversi, ma insomma la strada principale, ripeto, è quella di trovare formule per aumentare i ricavi. Ed ero curioso per esempio di chiedere, anche se abbiamo qualche secondo ancora, al presidente Beretta se gli piacevano le iniziative per esempio assunte dalla Lega di Serie B, che guarda un po' al modello della Bundesliga con delle formule legate a sponsorizzazioni collettive, se in qualche modo si può pensare, insomma, ad importarle anche in Serie A. Presidente. Ma per la verità, diciamo, noi le abbiamo da svariati anni, cioè, quindi in realtà il modello è il modello nostro. Noi abbiamo una storica sponsorizzazione con la team per quanto riguarda i tornei, abbiamo una ormai anch'essa consolidata, quasi storica, sponsorizzazione collettiva che riguarda l'utilizzo del pallone. Quindi in realtà noi il modello lo abbiamo varato e lo stiamo utilizzando da molti anni. L'importante è sapere, diciamo, dove si sta andando e cosa si fa. Cioè, ripeto, io faccio gli auguri alla B di ottenere degli ottimi risultati, lo dico sinceramente da questo punto di vista, ma ripeto, è una strada che noi stiamo, diciamo, perseguendo da molti anni e credo con risultati importanti sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda, ripeto, cito queste due sponsorizzazioni, ce ne sono altre minori, posso citare un contratto importante che abbiamo fatto con la Panini per gestire, diciamo, i diritti d'immagine insieme a quelli dei calciatori, quelli, diciamo, dei colori sociali. Dobbiamo, ripeto, certamente andare a guardare a tutte le possibilità di ampliamento dei ricavi. Alcune sono, diciamo, nelle disponibilità delle singole società, altre sono nelle disponibilità collettive. Serve appunto rimuovere una serie di limiti, di ostacoli che pesano sul calcio italiano. Uno è, come dicevo prima, la mancanza, diciamo, di stadi adeguati, che oggi sono gestiti, ricordo, dai comuni, con l'unica eccezione dello stadio olimpico che è di proprietà del CONI, quindi, e diciamo l'unico gestito finora direttamente dalla società è quello della Juventus di Torino. Abbiamo un altro aspetto generale che riguarda il calcio, ma come riguarda tantissimi altri settori merceologici di produzione italiana, dobbiamo… Che è la protezione del marketing, la protezione del marketing. Dobbiamo rendere diciamo effettiva l'iniziativa di contrasto alla contraffazione, no? Altrimenti anche questo è un problema, che limita molto le potenzialità di crescita dei ricavi in questo settore per le società italiane. D'altra parte, chi la domenica va negli stadi, sì, è evidente che c'è una situazione differente rispetto a quello che accade all'estero. Passa attraverso una sorta di fiera del falso e poi arriva, diciamo, allo stadio. Credo che tutto questo evidentemente rappresenta una limitazione alle possibilità di ricavo. Dobbiamo lavorare insieme con gli organismi competenti, le forze dell'ordine, a volte anche proprio andando a rivedere alcune normative. Lo devono fare gli organismi collettivi, lo deve fare la Lega, lo devono fare e lo possono fare le singole società nelle loro aree di pertinenza. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Maurizio Beretta, Marco Bellinazzo. Presidente Beretta, due giorni fa sulla Gazzetta dello Sport il presidente del CONI Malagò è stato abbastanza duro nei confronti della Lega, ha detto è una situazione non normale e nemmeno giusta, che non può durare il fatto che in Lega non siano adeguatamente rappresentati praticamente il 70% dei tifosi italiani. Fra 10 giorni c'è la Supercoppa che si è trascinata dietro una serie di polemiche non ancora concluse. Le chiedo se vuole rispondere, cosa vuole rispondere al presidente del CONI. No, ma non c'è nulla da rispondere. Peraltro con il presidente del CONI ci siamo sentiti prima e dopo questa intervista, il contatto è costante. Il presidente dice che, come dire, ha un valore il processo democratico, e giustamente nello stesso tempo bisogna trovare le formule migliori perché tutti possano concorrere al meglio per fare una Lega forte. Io non posso che essere d'accordo su questa impostazione, al di là di qualche aggettivo, e credo che dobbiamo cercare tutti di lavorare in questa direzione. Penso che un richiamo a ritrovare la possibilità di un dialogo e di una collaborazione più costruttiva all'interno della Lega, per farne una Lega più forte, proprio per tutte le questioni che abbiamo aperte e che ci dobbiamo trovare ad affrontare a partire da quest'autunno, credo che sia non solo da accogliere, ma cercare di mettere insieme tutte le forze, le capacità di proposta. Sì, bisogna riuscire a fare sintesi anche con chi è rimasto fuori. La chiusura, Marco, la lascio a te. Si è parlato anche di giustizia sportiva, prego Marco. Io appunto volevo chiedere al presidente Beretta, in quest'ottica, se non sarebbe il caso di in qualche modo accelerare anche un processo di riforma della Lega un po' sul modello delle altre leghe, con un manager indipendente, con un mandato chiaro, togliendo un po' di potere magari all'assemblea, in maniera tale che finalmente chi siede in Lega non sia appunto semplicemente proprietario di una squadra, ma siano 20 azionisti di un'unica società, che appunto è il Calcio Italiano S.p.A., in modo da non perdere ulteriormente terreno con Premier e Bundesliga. Presidente. Ma guardi, io penso che, come in tutte le realtà, al fondo gli indirizzi, le posizioni, le scelte le fanno gli azionisti. Quindi se gli azionisti, che poi sono le società che danno vita alla Lega e al campionato di Serie A, ritengono come è possibile di andare verso una evoluzione di questo tipo, ovviamente è una cosa da seguire con grande interesse. Il punto però, ripeto, è che questo deve in qualunque modo, in qualunque momento, necessariamente essere il frutto di una volontà condivisa all'interno dell'assemblea della Lega. Tradotto, si devono mettere d'accordo i presidenti, cosa che, questo è un mio personale giudizio, in questo momento probabilmente è difficile. Ci sono rapporti soprattutto tra alcune società molto tesi, lo stiamo vedendo anche sul mercato, ma sono questioni che evidentemente riportano anche al di fuori dell'ambito del calcio. Probabilmente in questo momento è difficile fare sintesi. Questo ovviamente è anche forse il momento del mercato, un momento complesso. Detto questo, io credo che se ci si mette attorno a un tavolo con buona volontà e serenità di giudizio da parte di tutti, prevalgono certamente l'importanza e il valore di avere una Lega forte, il più possibile unita, in grado di porre tutta una serie di proposte, di capacità di confronto su vari temi dentro il sistema sportivo e dentro il sistema del mercato più generale, e ovviamente una Lega più forte che può avere un peso maggiore. Quindi io, come dire, mi auguro che questo, diciamo, processo si possa partire, possa trovare, diciamo, delle formule adeguate. Farò evidentemente tutto quello che è nelle mie possibilità, come ho detto sin dall'inizio, per favorire questo processo. Peraltro, come dire, io credo che la Lega abbia sempre cercato, come dire, di interpretare al meglio, come dire, la somma degli interessi e di delle singole società e di trasformarlo in una diciamo in una logica di interesse generale. È chiaro che questo è un processo che quanto più, diciamo, può essere diciamo facilitato, aiutato, quanto più il clima all'interno della Lega stessa. Sì, c'è bisogno di un clima meno litigioso, in alcuni momenti lo è evidentemente in maniera eccessiva. Presidente, la ringrazio e la saluto. Grazie Presidente Beretta. Grazie a voi. Grazie Presidente Beretta, grazie anche a Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao Giovanni, a presto. Grazie Marco Bellinazzo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. C'è chi scrive: il campionato italiano è un prodotto invendibile, su Twitter, chiocciola tutti i convocati. Io non sono d'accordo, non è un campionato prodotto invendibile. Potrebbe dirsi la stessa cosa ad esempio del campionato tedesco, prendendo come parametro l'ultima stagione che si è conclusa con due mesi d'anticipo, come spesso accade ad esempio in Spagna, dove la lotta è limitata a due squadre. Certamente il campionato italiano ha bisogno di una mano per essere un prodotto maggiormente vendibile, però ha un valore di mercato. Oggi quel valore di mercato è 1 miliardo di euro per quanto riguarda i diritti televisivi. Ho l'impressione che difficilmente la Lega riuscirà a strappare lo stesso tipo di valutazione quando aprirà il bando per il 2015, stanno lavorando per cercare di comunque rispettare quei parametri. Abbiamo detto questa notte il Milan, 800 24 00 24 per dirci che cosa ne pensate. 2-0 sui Los Angeles Galaxy, il primo gol stagionale di Mario Balotelli, tra l'altro anche un bel gol, come anche quello di Niang. Sentiamo Allegri dopo la partita. Abbiamo fatto bene entrambe le fasi, oggi abbiamo fatto discretamente bene la fase offensiva. È normale che ci sia ancora da migliorare, la condizione sta venendo avanti. Ora rientriamo in Italia, ci prendiamo un paio di giorni di vacanze, di riposo, e poi dopo ci prepareremo al meglio per questi preliminari. Questo Allegri. Gagliani invece, il giudizio sulla partita del Milan. Ma non lo so, io non mi piacciono fare previsioni, a me sembra che la squadra stia giocando bene. Stiamo applicando in questo momento il 4-3-3, che mi sembra in questo momento la formula migliore. Non mi piace fare previsioni, ma insomma mi piace il gioco del Milan in queste partite. Ha anche detto Gagliani: il Milan sta giocando bene con il 4-3-3, che è una cosa curiosa, perché questo doveva essere il momento per Allegri di sperimentare il modulo con il trequartista, quello che gli ha chiesto Berlusconi, ma la verità è che il Milan in questo momento non ha gli uomini per farlo. Gagliani ha anche detto che Onda non è raggiungibile, che sugli Aichen non sono previsti incontri con la famiglia della Valle. Penso però che prima di Ferragosto o subito dopo il Milan dovrà trovare un trequartista, perché così fa davvero fatica a giocare con le due punte e un uomo dietro. Loris da Milano, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Complimenti per la trasmissione. Volevo soltanto un suo parere riguardante la Lega Pro. Dica. Cioè, stanno trattando il discorso di la Lega da quest'anno punteranno soprattutto sul settore dei giovani, praticamente. Sì. Ecco. Allora, io vorrei capire, il presidente della Lega quando parla ha fatto certe affermazioni dicendo che un giocatore se ha 26 anni non è arrivato in Serie A, in Serie B, è giusto che cambi squadra, cambi mestiere. Ma forse magari il presidente non ha capito che con tutti questi stranieri che ci sono in Italia, e ci sono parecchi tra A e Serie B, preclude le possibilità. Non c'è dubbio. Giocatori della Lega Pro. Però penso, Loris, che il discorso che si sta cercando di fare nel campionato di Lega Pro sia un tentativo di dare a quel campionato una sua giustificazione. Nei prossimi anni la Lega Pro perderà delle squadre, subirà a sua volta un'operazione di snellimento che è nei fatti, perché tutte le estati noi viviamo l'epoca dei ripescaggi, perché in tanti non ce la fanno ad iscriversi. Cercare di dargli una finalizzazione, secondo me, può avere un senso, può essere un bacino per i campionati superiori. Evidentemente questo è un passaggio che va gestito, perché è doloroso dover dire a una generazione di calciatori che di fatto non ha più possibilità di lavorare, perché all'altezza della Lega Pro il calcio è ancora un lavoro, è professionismo, però può essere una strada da percorrere, può essere un tentativo. Roberto da Verona, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Grazie della convocazione. Dica. No, niente, volevo solo sentire, come mai, volevo chiedere, suggerirvi di fare una trasmissione sulla Lega Dilettanti, che ci sono iscritte migliaia e migliaia di squadre, dove in questo momento l'economia sta soffrendo moltissimo e non è mai aiutata da nessuno, né dalla Lega e da altre componenti, istituzioni. Sì. Sarebbe interessante fare sarebbe interessante. In realtà, Roberto, a me sembra che in Italia storicamente il calcio, per calcio intendo il calcio professionistico, abbia aiutato lo sport, abbia messo a disposizione in maniera diretta o indiretta delle risorse. Storicamente lo faceva con le schedine del Totocalcio, lo fa anche con un sistema di finanziamenti a paracadute per chi si trova nelle serie inferiori. Secondo me, se un movimento come quello dei dilettanti in questo momento soffre, evidentemente soffre la crisi e fa fatica ad andare avanti, è il segno che anche quel movimento ha bisogno di una dieta, perché non si può vivere al di sopra delle proprie possibilità. Non lo può fare il calcio dei grandi, non può farlo il calcio professionistico, però non lo possono fare nemmeno i dilettanti. Piero scrive al 349-238-6666: il campionato italiano, livello di gioco a parte, ha scarso appeal, anche perché quasi tutti gli stadi sono brutti, fatiscenti e quasi sempre semivuoti. È vero, tra l'altro notizia di oggi, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 2016 la possibilità degli arresti in differita in caso di incidenti all'interno e all'esterno degli impianti da gioco, e questa è una misura che ha dato dei risultati per cercare di allontanare la violenza degli stadi. Secondo me non è la panacea di tutti i mali, però tant'è, il governo ha prorogato fino al 2016. Tutti convocati. 800 24 00 24. Questa notte c'è stata anche la prima sfida tra il Real Madrid e Mourinho. Era una sfida molto attesa, anche se si trattava soltanto di un amichevole, per tutte le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni. Il botta e risposta tra Mourinho e Cristiano Ronaldo. Ha vinto il Real Madrid 3-1. Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta. Ne ha parlato così Ancelotti. Cristiano ha fatto un gran partito, ma per lui è normale. Deve giocare bene, deve marcare gol, tiene una buona condizione, perché è un giocatore molto professionale, molto serio nel lavoro. Credo che il lavoro dell'entrenatore con Cristiano, con giocatore come Cristiano, è più facile. Giocare con uno come Cristiano Ronaldo è molto facile. La risposta di Mourinho, sentiamolo. Declarations against Cristiano is your movie, it's not my movie. It's not my movie. I just told to try to identify the person. I just told the true Ronaldo in relation to the Brazilian one. If somebody asks me Thomas Müller and Gerd Müller, for me the real one is Gerd Müller, because he's the first one. Non so cosa ne pensate, a me Mourinho piace, perché dialetticamente lui cerca sempre di uscire dall'angolo. ha detto su Cristiano Ronaldo, le polemiche con me, vi siete costruiti un film da soli. Io ho semplicemente detto che il vero Ronaldo è quello brasiliano perché è arrivato per prima. Avrei detto la stessa cosa, ad esempio, se mi aveste chiesto il paragone fra Gerd Müller e Peter Müller. Straordinario, Mourinho quando fa così. 800 24 00 24, diteci in diretta che cosa ne pensate. Poi parleremo anche con la fresca campionessa del mondo di fioretto femminile, Arianna Enrico, ieri a Budapest, una vittoria straordinaria e due italiane sul podio, a un anno di distanza da quel podio bellissimo, quello tutto azzurro alle Olimpiadi di Londra. Adesso però vi vogliamo raccontare quello che secondo noi è un po' il retroscena di quanto oggi viene scritto sulla crisi dell'Angi, che dopo 2 anni riduce il budget e manda via tutte le star. L'avete riconosciuta, è la colonna sonora dell'ultimo dei Moicani che accompagnava allo stadio le partite dell'Angi. Buon pomeriggio a Nicola Lombardozzi, inviato, anzi corrispondente dalla Russia di Repubblica. Ciao Nicola. Ciao, buongiorno. Autore 2 anni fa, unico italiano mi sembra, di uno straordinario reportage su dove sarebbe andato a finire Eto'o, reportage lusso, attentati, filo spinato, ecco il bunker dorato di Eto'o. Iniziava con la descrizione di quella specie di campo militare circondato da un muretto bianco e da rovi di filo spinato che sarebbe stato il resort che ospita nel fine settimana le stelle dell'Angi. È tutto finito, ma ho l'impressione, Nicola, e ho riletto questa mattina il reportage che tu hai scritto nell'agosto del 2011, che fosse abbastanza chiaro che c'era ben poco di sportivo in questa avventura dell'Angi. Di sportivo non c'era assolutamente niente, e il budget è lievitato anche perché in quel posto che ho descritto i calciatori avevano accettato di viverci solamente qualche ora nelle partite casalinghe dell'Angi. In realtà vivevano a Mosca in case di lusso, e poi tutti gli spostamenti avvenivano in elicotteri e limousine. Questo, quindi, potete immaginare già quanto sia stato abbastanza costoso. Poi dal punto di vista dello sport non c'era nessuna intenzione puramente sportiva, se non quella di un piano piuttosto manifesto del governo Putin, che è quello di mascherare al mondo la crisi del Caucaso. Il Dagestan non è forse molto famoso per noi italiani come la più famigerata Cecenia, ma il Dagestan è una di quelle repubbliche che secondo un gruppo piuttosto ben armato di guerriglieri fa parte di un teorico emirato integralista islamico che prima o poi vuole conquistare l'indipendenza da Mosca. Per farla breve, si tratta di attentati quotidiani contro la polizia, contro le sedi dei pochi palazzi ministeriali. Insomma, è una zona di guerra, il mondo non lo sa. C'era anche Cascato, visto che si parlava per un po', per qualche tempo si è parlato dell'Anci come di una squadra di calcio con tante stelle, ma il progetto era sicuramente piuttosto esageratamente azzardato. Sì, ti avevano risposto: non vogliamo competere subito con Real Madrid e Manchester United, meno male, ma intanto, scalare le gerarchie in Russia, diventare una squadra di livello europeo. In realtà non c'era niente di calcistico. In qualche livello c'erano anche riusciti, l'Anci è stato in testa alla classifica per qualche tempo all'inizio del campionato, poi le gerarchie russe, anche gli oligarchi e i miliardari che finanziano le altre squadre come il Rubin Kazan, ma soprattutto il CSKA di Mosca, non sono certamente da meno, quindi comunque giocavano alla pari con queste difficoltà logistiche e, diciamo, con un appoggio del governo che evidentemente è venuto a mancare. Ora non vorrei andare un po' fuori tema, ma insomma il Caucaso, appunto, terra di guerra e di povertà assoluta, doveva essere mascherata al mondo, ma diciamo che gli investimenti avvengono lo stesso. Adesso stanno per partire le Olimpiadi di Sochi, che forse nessuno sta proprio nel cuore della zona più pericolosa per il terrorismo islamico, e quindi diciamo che probabilmente le vagonate di rubli che arrivano da Mosca per finanziare questa operazione sono già considerati sufficienti. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti quando raccontiamo questi fenomeni, intanto per non svegliarci poi a 2 anni di distanza e stupirci per quello che è accaduto, come nel caso dell'Angi, o probabilmente anche per cercare di interpretarli quando accadono. Tu hai citato le Olimpiadi di Sochi, nei prossimi mesi credo se ne parlerà molto di questa difficoltà ambientale per Sochi. Credo sia un tema sottovalutato in questo momento. Pensate semplicemente, adesso non sto qui a ricordarvi i numeri anche perché non li ricordo io, ma diciamo che l'Olimpiade di Sochi costerà più o meno 7 volte la precedente Olimpiade, e più della metà di tutto questo budget sarà devoluto alla sicurezza. Chiunque andrà a Sochi sarà spiato letteralmente, in maniera anche palese, in tutti i suoi movimenti. La paura c'è, la preoccupazione è forte. Per quanto riguarda il Makhachkala di Angi, cioè l'Angi di questa disastrata capitale del Dagestan, che per un attimo ha visto giocare Toho e Roberto Carlos, è una città che vive assolutamente nel terrore, e i finanziamenti sono serviti solamente appunto per la squadra. La città è assolutamente disperata e, tra l'altro, posso dire, nemmeno così appassionata al calcio come raccontano i notiziari della TV di Stato. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Noi di questi 2 anni di Eto'o nel Dagestan ricorderemo questo. Par contre ici je veux 3 mecs 3 bouches aujourd'hui. Questo è Eto'o che raccontava ai 2 inviati di una televisione africana che non andava bene perché gli era stato promesso un televisore al plasma 54 pollici e invece il televisore era leggermente più piccolo. Parlava da quell'attico meraviglioso di Mosca, dove in realtà viveva per tutta la settimana, Nicola, altro che Dagestan, dove si trasferiva soltanto nelle ore precedenti alla partita. Guardate, l'ho raccontato, l'aereo che arriva, l'aereo privato naturalmente dei calciatori, arriva in un aeroporto che sembra che è un aeroporto da terzo mondo, con le mucche sulla pista, e delle limousine blindate, perché lì bisogna stare attenti agli attentati, scortavano appunto i calciatori in questo resort modesto, dove per fare un banalissimo esempio, avevo cercato di dormire ma non ho potuto perché, dovendo scrivere l'articolo, l'albergo non era sufficientemente organizzato come linee telefoniche, ecco, basta solo questo. Stavano chiusi lì ma per non più di 2 ore, andavano a fare la partita e poi ripartivano con l'inno dell'ultimo dei Moicani che li accompagnava fino all'aeroporto. Tutto qua. In realtà Eto'o, Roberto Carlos e gli altri hanno vissuto alla Rubliovka, che è uno dei quartieri più esclusivi e lussuosi, magari non belli ma assolutamente super lussuosi di Mosca, dove, per fare un esempio, vive un certo Vladimir Putin. Certamente. C'è chi ha scritto che ci sarebbero anche problemi di salute di Suleiman Kerimov, che è il magnate che aveva dato via e vita a questo progetto dell'Angi. Dobbiamo crederci o copre altro? Guarda, questo non è possibile confermarlo, perché le voci sugli oligarchi cosiddetti, cioè i super miliardari protetti dallo Stato, sono di sempre molto difficili da verificare. A noi non risulta, le sue aziende comunque, se lui dovesse star male, cosa che non posso verificarvi, sicuramente le sue aziende proseguono alla grande. Diciamo che, come spesso accade, Putin ha chiesto al suo amico miliardario un investimento sostanzioso. Alla fine di questo investimento il signor Kerimov ha chiesto di uscire fuori da quest'incubo, e gli è stato concesso, proprio perché ci sono altre situazioni di questo tipo. C'è un'altra squadra di calcio, per esempio, proprio in Cecenia, si chiama il Terek di Grozny, che tra l'altro ha fatto la finale della Coppa di Russia, quindi ha avuto dei buoni risultati calcistici. Questa probabilmente può continuare perché non è affidata a un miliardario, diciamo fra virgolette, volontario, ma a un politico di mestiere, al dittatore della Cecenia, nominato personalmente da Putin, che quindi a Putin deve tutto, e che direttamente con i soldi dello Stato ha fatto una squadra di calcio di cui si parla tanto. La situazione è un po' migliore che a Makhachkala, i giocatori vanno sempre a Grozny, capitale della Cecenia, per poche ore, però si possono permettere il lusso di stare su residenze sul Mar Nero e non addirittura a Mosca a 4 ore d'aereo. per dirci, in quella squadra ha giocato Gullit, che l'ha anche allenata, hanno fatto delle partite di un certo rilievo, e quella squadra comunque già questa, più le Olimpiadi di Sochi, per l'immagine del Caucaso in questo momento sono sufficienti. Grazie Nicola Lombardozzi. Grazie a voi, buongiorno. Grazie Nicola Lombardozzi di Repubblica. Così va il calcio, così va lo sport in Russia. Storia questa dell'Anji che meritava di essere raccontata per intero, perché il comunicato del club parlava di scarsi risultati sportivi, però c'è dell'altro, così come era evidente 2 anni fa al momento dei grandi investimenti, che non poteva essere soltanto una cosa sportiva. C'è Santo dalla provincia di Treviso che ha chiamato l'800 24 00 24. Prima però sentiamo Guidolin, perché questa sera l'Udinese gioca la partita di ritorno del preliminare di Europa League. Le amichevoli sono amichevoli, queste sono partite vere, bisogna prenderla come una partita vera ed entrare in campo con lo spirito e la concentrazione di una partita vera, perché c'è in ballo una qualificazione. Per me è uguale, è una partita, un preliminare, che sia Arsenal, che sia Scirocchi. Per me è la stessa cosa. Udinese che è praticamente qualificato dopo il 3-1 esterno. Tutti convocati. Balotelli ha avuto paura che ci fosse, sembrerebbe solo un crampo, auguriamoci che sia così, perché ormai fra qualche giorno, fra meno di 2 settimane arriva la Champions. Proprio con Balotelli abbiamo provato tutti un brivido quando l'abbiamo visto. Io infatti mi sono fiondato negli spogliatoi proprio per Balotelli. Sembrerebbe niente di pericoloso, per esempio. Si è fiondato veramente, Gagliani, direttamente negli spogliatoi. Si era spaventato avendo visto Balotelli crollare a terra. Ma è soltanto un crampo. Santo dalla provincia di Treviso, 800 24 00 24. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. A tutti quanti voi. Salve, niente, io volevo chiederle un suo parere. Questa sera come sarà la partita della Fiorentina con il Villarreal? E secondo lei come affronteremo il turno preliminare dell'Europa League? E anche dove può arrivare secondo lei questa Fiorentina? Perché io, a vederla così, mi sembra una buonissima squadra. Abbiamo fatto delle amichevoli veramente belle, facendo tanti gol e subendone anche pochissimi. Sì, credo però, Santo, che la Fiorentina abbia scelto, probabilmente giustamente, un profilo più basso per il livello delle amichevoli. Quella di questa sera contro il Villarreal è, da questo punto di vista, un test interessante, perché si comincia ad alzare l'asticella, quindi è un test da seguire con interesse, secondo me, quanto alle potenzialità della Fiorentina. Ne abbiamo parlato anche ieri. La Fiorentina è destinata a un'ottima stagione, anche se peserà l'effetto Europa League. Sui preliminari io mi auguro, di più non posso fare, che sia Fiorentina che Udinese arrivino fino al girone, evitandoci eliminazioni che si sono verificate anche negli anni scorsi, perché soprattutto la Fiorentina ha poi la possibilità di andare avanti, e quindi poi insomma vediamo anche quali saranno gli avversari. Beppe da Ivrea, buon pomeriggio. Pronto? Prego. Buon pomeriggio a tutti, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Che è molto competente. Dica. Prima sentivo parlare di calcio minore. Io sono in maniera molto umile il direttore sportivo di una società di prima categoria che campa esclusivamente di calcio, quindi vuol dire che non abbiamo nessun tipo di sponsor. Abbiamo 300 tesserati e facciamo veramente fatica, quindi i signori della Serie A, della Serie B, della Serie C, che sperperano denaro in faccenze inutili, dovrebbero rendersi conto che ci hanno insegnato che il calcio italiano è una piramide. Al fondo della piramide c'è il calcio dilettantistico, e continuando di questo passo le società dilettantistiche spariscono. Una società come la mia paga in lega, tra iscrizione, cartellini, assicurazioni dirigenti e quant'altro, circa 13.000 euro all'anno, una cifra spropositata. Ma fa veramente fatica. È d'accordo con me che la dieta deve servire a tutti noi, perché poi ovviamente è l'aspetto più pubblicizzato, parliamo e molto della dieta che deve fare il calcio italiano di vertice, c'è il fair play finanziario, ci sono tutta una serie di norme, però secondo me la dieta bisogna farla anche ai livelli più bassi, assolutamente, perché ci sono troppe società semiprofessionistiche e va ridotto il numero, che spendono e spandono. Quando ci sono società che nei nostri campionati arrivano a spendere 100, 120, 150 mila euro all'anno per poter mettere in piedi una squadra, per far bene in un campionato, io credo che siamo arrivati a livelli di indecenza. Questa è semplicemente indecenza. E bisogna trovare il modo di calmierare tutto, dai più grandi ai più piccoli. Come non lo so, è un problema serio, un problema importante. Io comunque le dico che ogni anno, almeno in Piemonte, spariscono dalle 20 alle 30 società. Sì, figuriamoci in altre realtà. Grazie Beppe. Paolo d'Alessandria, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno. Prego. Io volevo intervenire, non so se siete già, ne avete già parlato, comunque riguardo Barcellona e Real Madrid, che ho letto oggi un articolo sul giornale, appunto, di queste spese eccessive di queste società, che poi nascondono i loro bilanci, che insomma non fanno sapere effettivamente. Sì, non è Paolo che nascondono, perché non c'è un dolo. Il problema è, e poi la faccio proseguire, che per la legge spagnola le società come il Barcellona e il Real Madrid, ma non solo, che sono società ad azionariato popolare, hanno una tassazione, una fiscalità differente, molto di favore, sono sostanzialmente delle no profit, cosa che evidentemente non può essere per società che fatturano mezzo miliardo di euro. L'Unione Europea su questo ha deciso di fare un'indagine e ci si augura cambiare le cose. Sì, è sotto gli occhi di tutto. Guardi, io proprio manco a farlo apposta, ieri ho avuto una discussione con un mio cliente proprio riguardo a questo, no? Parlando appunto di queste società che, nonostante i problemi gravissimi che ci sono nel loro paese, fanno delle spese pazze. Ho detto, ma non è una cosa normale, ecco, mi sembra che sia una cosa sotto gli occhi di tutti, ecco, che comunque sono società che anche un po' per quanto nei riguardi dei loro concittadini dovrebbero, comunque, come facciamo noi in questo momento in Italia, e non capisco come mai in Italia ogni momento sorge qualche indagine su qualche società, su qualche cosa che di illecito, e negli altri paesi invece non succede mai niente. Cioè, secondo me non è una cosa molto logica questa. Sì, dopodiché però bisogna anche avere il coraggio di spiegare, ad esempio, che se il Real Madrid spenderà 120 milioni di euro per acquistare Gareth Bale, lo farà perché se lo può permettere, perché il Real Madrid è una società che fattura tantissimo, è una società che nel corso degli ultimi anni ha comunque nettamente migliorato la propria posizione finanziaria, ha battuto i debiti, è ampiamente all'interno dei parametri del fair play finanziario, quindi non ha nessun problema. Non stiamo parlando degli investimenti del Paris Saint-Germain, del Monaco, della situazione anche di alcune società italiane, mi viene in mente l'Inter ad esempio, ma non solo. Bisogna avere anche il coraggio di dire che queste società, che sono delle vere e proprie imprese economiche, che sono delle vere e proprie industrie, alla fine fanno delle operazioni economiche che in passato si sono rivelate vantaggiose, perché Florentino Perez, quando ha investito centinaia di milioni di euro in grandissimi giocatori, ha poi avuto, Alessandro, anche come ritorno un aumento importante del fatturato. Quindi vuol dire che la sua scommessa, al di là dei risultati del campo, l'ha vinta, Alessandro. Sì, no, beh, Paolo da Alessandria, Paolo da Alessandria. No, va bene, cioè, ecco, secondo me quindi non c'è niente di strano. No, secondo me c'è di strano. La questione della fiscalità è strana, bisogna intervenire, non è l'unico aspetto. Noi abbiamo parlato per tanti anni della legge Beckham, quella cosa che permetteva di pagare le star straniere al 24%, cioè la metà di quanto venivano pagate in tasse altrove. La legge Beckham non c'è più, ci sono altri aspetti della fiscalità spagnola che sono però vantaggiosi, così come accade ad esempio nel Principato di Monaco. Però lo spiegava prima il presidente della Lega Beretta, ogni Stato è sovrano per quanto riguarda la tassazione alle proprie imprese, alle proprie società, e quindi è difficile, se non impossibile, imporre da parte dell'Europa, figuriamoci da parte dell'UEFA e degli organismi del calcio, è difficile, è quasi impossibile imporre una legislazione federazione che possa mettere tutti sullo stesso piano. Certo, se l'Unione Europea alla fine di questa inchiesta su Real Madrid, Barcellona e non solo arrivasse a una conclusione, arrivasse ad esempio a cancellare questa disparità, sarebbe un ottimo risultato, però non è assolutamente scontato. Grazie comunque Paolo. A proposito dell'Angie, di cui abbiamo parlato prima, è cominciato l'esodo e c'è già la prima cessione, Denisov, che va alla Dinamo Mosca. La notizia è appena stata battuta dall'ANSA. Il capitano della nazionale russa infatti ha annunciato che passerà alla Dinamo Mosca. È già stato raggiunto un accordo per 4 anni, ha dichiarato una fonte del club della capitale russa, e vedrete che piano piano tutti i gioielli dell'Angi finiranno per cambiare maglia. A proposito di domande, che cosa ne pensate di Cassano al Parma? Quanto può dare ancora? Alessandro ha scritto al 349-238-6666. Penso che Cassano possa dare molto, soprattutto quest'anno, perché ha in testa ancora l'idea di poter fare il mondiale. Io non so se Prandelli lo prenderà mai in considerazione, ha in parte aperto un paio di settimane fa in un'intervista. Io credo che Cassano sia un giocatore che ha un buon rendimento, soprattutto nei primi mesi. A Parma farà bene all'inizio, e poi bisognerà vedere per quanto riuscirà a essere motivato anche da questa speranza di arrivare al mondiale. Intanto chi sembra avere certezze sull'impegno di Cassano è Roberto Donadoni, che ha detto è in crescita. Ieri il Parma ha giocato, secondo Donadoni Cassano ha mostrato dei miglioramenti, anche se non è ancora al meglio, sta però facendo bene il percorso di crescita e le sue prestazioni migliorano. Scrive Alessandro, ci vuole proprio coraggio a dire che i club spagnoli non hanno debiti. Non ho detto che non hanno debiti, il calcio spagnolo è indebitato per 5 miliardi di euro, 1 miliardo di euro di debiti li ha con il fisco, e questo è un problema che ha portato il fisco a fare un accordo con la Lega spagnola, per cui a partire dal 2014 sostanzialmente sono stati impegnati, pignorati i proventi dei diritti televisivi. Però non stiamo parlando di Real Madrid e Barcellona. Real Madrid e Barcellona sono due club ricchi, e essendo club ricchi fanno sul mercato quello che vogliono, quello che si possono permettere. E poi cambierà probabilmente anche la legge sulla spartizione dei diritti TV in Spagna, e quindi anche Real Madrid e Barcellona dovranno rinunciare a qualcosa. C'è anche la richiesta ufficiale alla Commissione europea di chiudere al più presto l'inchiesta sui due club spagnoli per dare delle risposte. Avevamo appuntamento con Arianna Enrigo, purtroppo non siamo riusciti a trovarla, cercheremo di parlare con lei, la fresca campionessa mondiale del fioretto femminile, domani. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio e saluto Franco Piantanide, autore di questa puntata, Filippo Aureggi in regia. Un saluto da Giovanni Capuano, ci troviamo domani alle 14 in punto.